Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. E oggi è la settimana bisestile. Comincia la settimana bisestile. Infatti sì. Dopodomani Drago è il 29 di febbraio. E quindi dopodomani chi compie 40 anni ne compie 10. Chi ne compie 10 ne compie 2 e mezzo. E chi ne compie 2 e mezzo ne compie una cifra con virgola e lineetta sopra l'ultimo 3 dei decimali. Sì, vabbè, ma smettila con la matematica. Tu non devi fare cose di matematica, perché tu di matematica sei ignorante. Vabbè, sono nato così. Settimana bisestile, quindi, che qui all'asilo festeggiamo nel modo più antico del mondo. Cosa vuoi dire? Modo più antico del mondo, di festeggiare. Quando si dice il mestiere più antico del mondo, ci si riferisce. Ci si riferisce. Quindi se dici che festeggiamo la settimana bisestile nel modo più antico del mondo, cosa vuol dire? Cosa facciamo? Okay. Chiamiamo due escort? Ma Due drink? Due cocktail? Ma non è venerdì. Siamo su una quindi festa venerdì? No, magari. No. Niente di tutto questo. Purtroppo, però, è pur sempre una possibilità da tenere in considerazione. Prima o vabbè, poi cos'è escort, sto, dai, eccetera. Cos'è sto modo più antico del mondo? Raccontare storie. Cos'ha? Vabbè, pensavo qualcosa di un po' più, dai, ricosa, almeno un po' più. Cosa? Dai, raccontiamo una storia, bambini, siete pronti? Storie da raccontare, dai. Pronti? Ce ne sono miliardi, dai, chi comincia? Bambini? La sapete la storia dell'alveare bicefalo? No. Infatti, qual è? Quella dell'ippopotamo che andava sempre ai concerti dei Baustelle? No. Ma questa cos'è? No. Ma cosa stai dicendo? Ce ne sono tantissime altre. Tipo? Quella dell'architetto arrugginito, la sapete? No, quella? Attuale, riguarda le Expo. Ma non possiamo stare un po' sul classico, tipo cosa il classico, sono diciamo tutte le fiabe dei Grimm, di Perrault, Esopo. Vabbè, ma sempre quelle, Drago, sono sempre quelle. Sono sempre quelle perché sono le migliori, scusa, non peraltro si tramandano da secoli. Dimmi un po' se l'architetto arrugginito. No, ma c'è quella, del portalampade vedovo, quella lì, ma, ragazzi, il Il portalampade vedovo. Vedovo. È un po' triste. No, perché c'è sua moglie che è morta fulminata. Ah, fulminata. Perché lui non funzionava, spesso, no? Però faceva contatto. Vabbè, è una bella. Tito, ma anche tu ti metti dai qua. Vabbè. Bambini, cosa facciamo? Allora, decidete voi. Una fiaba che vi piace. Una fiaba. Dobbiamo fare una corsa. Facciamo così. Dai, voi siete in tre. È una roba di tipo i. Sì, ma veloci. Replicanti. No. I replicanti. I tre porcellini. Qui qua. No. I tre porcellini. Va bene. Tre porcellini. Vabbè, ok, allora va bene, allora per la settimana bisestile facciamo. Ok, pronti? Via! Chiedo asilo! Speciale settimana bisestile. I tre porcellini. Prima puntata. Noi siamo tre fratelli. Noi siamo porcelli. Andiamo a vivere da soli. La mamma ci ha sbattuto fuori. Noi siamo un, due, tre. Ognuno nella sua casetta, occhio brodo fuori, lupo lì che aspetta nel guaglio. C'erano una volta tre porcellini: Gildo, Ioris, Ioris e Filippo. Uè, perché Filippo? Tutti gli altri con il loro vero nome e io Filippo? Zitto, Filippo. Infatti, Pippo, sembra far polemica. Uè, non mi chiamo Pippo e nemmeno Filippo. Gildo, Ioris e Filippo erano tre bamboccioni. No, però, aspetta un attimo. Bamboccioni non è corretto. Cioè, qui c'è la crisi, Cioè, non è che uno alla mia età ha già i soldi per andare a vivere da solo. Altro che bamboccioni. Erano tre bamboccioni viziati e vivevano con la madre in una casa nel bosco. La casa era spaziosa, ma i porcellini crescevano molto in fretta. Specialmente tu, Pippo! Vabbè, in che senso? Ma ti sei visto quanto sei grosso? Pare tu solo perché sei uno stecchino. Meglio uno stecchino che un ciccione. Oh, ciccione, tu a me non lo dici, Ciccione! Zitto tu! E basta adesso, voi tre! Mamma Porcellina aveva passato gli ultimi anni della sua vita completamente assorbita nel ruolo di madre ed era sull'orlo dell'esaurimento nervoso. La casa ormai è troppo piccola per vivere tutti insieme e io sono stanca di continuare a, diciamo, fare la schiava per voi. Ma mamma! E diciamo anche mamma. Che sono stanca di cucinare, lavare e stirare. Mamma! E sono anche stanca del vostro disordine, dei vostri schiamazzi, diciamo, delle vostre polluzioni notturne. Le popolazioni notturne! Ma quali popolazioni notturne? Sono le polluzioni notturne, no? Le polluzioni, capito? Sono quelle che succedono quando... Hai capito? Cioè... Sì, come... polluzioni! Ma basta! Ma... Mi avete sentito? È ora che ciascuno di voi vada per la sua strada. Ma mi raccomando, state attenti. In questa zona circola un lupo cattivissimo, un famoso cacciatore, che però ha il difetto di avere una dieta troppo ripetitiva. Si nutre infatti esclusivamente di porcellini morbidi e grassi. Ah, morbidi e grassi? Io sono magra, asciutto e secco. Cinzia è così piccolo che neanche si vede. È piccolo! Quindi l'unico che deve avere paura del lupo è proprio Filippo. Calma, uè. Io sono morbido ma non grasso, eh. E c'è una bella differenza, eh. Allora, ve ne volete andare o no? Vabbè, se ce lo chiedi così. Gildo, il più piccolo, tentò ancora di intenerire la mamma, ma lei fu irremovibile. Mi mancherete, figlioli. E fu così che i tre porcellini bamboccioni, Gildo, Ioris e Filippo... Ma basta, Filippo! Sono Alberto! Stai zitto! Prepararono i loro fagotti e si incamminarono. Ognuno per la sua strada. Noi siamo tre fratelli. Noi siamo porcelli. Andiamo a vivere da soli. La mamma ci ha sbattuto fuori. Noi siamo 1, 2, 3 fratelli. Noi siamo porcelli. Ognuno nella sua casetta. Occhio brodo fuori, il lupo lì che aspetta. Che cosa succederà adesso? Come se la caveranno Gildo, Ioris e Alberto? Ops, rettifico, Filippo. Ma no, ma cosa rettifichi? È giusto Alberto? Che cosa troveranno sulla loro strada? Gioia, fortuna e ricchezze? O il lupo affamato e cattivo che si nutre di porcellini morbidi e grassi? Ma che me ne frega a me? Io sono lo stecchino! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 24 per il prossimo prosciuttesco allestimento di... E allora? Non va bene. Terrore!